Europa 24. E allora un saluto da Europa 24 da Anna Migliorati. Sono riprese questa mattina tra le proteste i rinvii di migranti dalla Germania in Turchia nell'ambito del piano concordato dall'Unione Europea con Ankara. Alcuni si sono gettati però nelle acque davanti al porto di Lesbo per cercare di ostacolare le operazioni di partenza. Una nave è comunque salpata. Ma quella che si prospetta è un nuovo braccio di ferro verso est, con Praga che chiede il no unitario del cosiddetto gruppo di Visegrad, formato oltre che dalla Repubblica Ceca, da Polonia, Slovacchia e Ungheria, contro le ultime proposte di Bruxelles in tema di emergenza migranti nell'ottica del superamento del sistema di Dublino. A dichiararlo questa mattina il premier ceco in partenza per Varsavia, dove oggi è in programma una nuova riunione congiunta dei governi di Polonia e Repubblica Ceca. Dalla Germania a parlare sono invece i numeri. Dalla chiusura della rotta balcanica cala infatti drasticamente il flusso dei migranti, ma è preoccupata l'Austria degli arrivi dall'Italia, e questa mattina un altro vertice ancora in corso a Roma, dovrebbe essere terminato da poco. Alessandra Schepisi. Sì, Anna, l'incontro è terminato poco fa al Viminale, ne sapremo di più perché verrà diremato un comunicato nelle prossime ore. Di certo l'Austria avrà ribadito la sua linea, cioè la chiusura della frontiera del Brennero se dovesse arrivare un flusso massiccio e incontrollato di profughi. La ministra austriaca dell'interno, Johanna Mikl-Leitner, è arrivata infatti in Italia per chiedere garanzie sui controlli alle frontiere meridionali, sulla funzionalità degli hotspot, per capire cioè se il nostro paese si sta attrezzando per gestire quello che secondo Vienna sarà un flusso senza precedenti. Le stime, le loro stime parlano di 300.000 arrivi nel 2016 dalla rotta mediterranea, il doppio rispetto al 2015, e di conseguenza migliaia di migranti pronti ad attraversare il valico del Brennero, un confine che dunque, mancanza di garanzie, potrebbe essere sigillato da Vienna nei prossimi mesi, e tutto ciò potrebbe avere anche delle importanti ricadute economiche, visto che attraverso questa direttrice transitano interscambi commerciali pari a 140 miliardi di euro l'anno. E poi intanto arrivano invece altri dati dalla rotta balcanica. Dalla rotta balcanica infatti arrivano sempre meno profughi in Germania, si è passati dai 500.000 del terzo trimestre del 2015 ai 170.000 del primo trimestre 2016, un calo costante: a gennaio 90.000, a febbraio 60.000, a marzo 20.000, tant'è che la Germania sta pensando di abolire da maggio i controlli alle frontiere introdotti da settembre. Con questo è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Tensione che si alza anche con Canada e Stati Uniti per Bruxelles. La Commissione europea, nella prossima riunione del Collegio dei Commissari martedì, discuterà il tema della mancanza di reciprocità nel regime di liberalizzazione dei visti da parte di Stati Uniti e Canada verso 5 paesi europei, per lo più dell'est, e potrebbe fare pressione su Washington e Ottawa chiedendo visti d'ingresso, al contrario per statunitensi e canadesi in tutta l'Unione europea. La questione riportata dal New York Times è stata confermata dalla portavoce della Commissione europea, Amina Andreeva. Attualmente entrambi i paesi chiedono ancora il visto ai viaggiatori provenienti da Bulgaria e Romania, gli Stati Uniti anche a chi arriva da Cipro, Croazia e Polonia. E viaggia via social, la nuova iniziativa per l'occupazione dei giovani europei. Presentata oggi la campagna EU Factor, un progetto della durata di 6 mesi rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che nasce per sensibilizzare i giovani allo studio delle scienze, della tecnologia e dell'informatica, indirizzandoli soprattutto verso percorsi professionali che offrano più opportunità di lavoro, ma che spesso vengono scartati perché ritenuti difficili o ancora peggio noiosi. Una campagna presentata nel corso del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. A lanciare l'iniziativa la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia. Si tratta di una campagna che si svilupperà soprattutto online e che darà visibilità all'impegno dell'Unione Europea nei settori della ricerca scientifica. Si inizia con il racconto delle storie di 5 ricercatori, i testimonial che sono riusciti a realizzare i loro sogni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Perché l'Europa è diventata così impopolare? Il sondaggio Big Crunch 2016 in collaborazione con Euronet Plus per far sentire la tua voce in Europa. Vi ricordo, aspettiamo anche i vostri voti sul nostro sito www.radio24.it. Ora ci fermiamo qui. Come sempre, l'appuntamento con l'Europa alle 21 ad effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.